se si apre una finestra nel tuo cuore e c'è una luce che li illumina, forse ti darà un po' di dolore, ma non chiuderla. E se qualche volta col tramonto nei tuoi occhi c'è una lacrima, non ti chiedere cos'è, perché l'anima è tutto quello che hai. Puoi fidarti di lei, ma non tenerla in gabbia o legata a un filo, non accarezzarla, non è il tuo gattino, ha bisogno d'aria, l'aria del mattino. Esci fuori e fai un giro per le strade piene, in mezzo a tanta gente, gente che non parla, che non chiede niente. Poi all'improvviso uno che si volta, che ti guarda e fa un sorriso. Ferma lì la tua anima e fidati. Cosa che comincia e poi finisce, te la lasci dietro l'angolo. Una foto, un volto che sbiadisce, vuol dire che era pallido. La tua anima da sola non rimane e quel sorriso non è l'ultimo. Lei lo sa, tra poche ore già domani lo rivedi e senti un brivido. Il segreto che c'è è fidarsi di lei, ma non tenerla in gabbia o legata a un filo, non accarezzarla, non è il tuo gattino, ha bisogno d'aria, l'aria del mattino.